Voilà, che emozione. Ci siamo. Allora, benvenuti su Radio Exalge XR con Michele, Sonia e Meli. Presentatevi pure brevemente anche da soli e poi diciamo cos'è XR. Va bene, allora parto io, sono Michele. Sono in Extinction Rebellion da ormai quasi 2 anni e mi sto occupando adesso del gruppo delle assemblee cittadine e poi anche del gruppo in visione della COP che ci sarà qua a Milano, la pre-COP, di cui magari parliamo dopo. Ciao a tutti, io sono Melissa, faccio parte di XR da poco più di 1 anno. Mi sto occupando all'interno del movimento, nello specifico, di un sottogruppo del gruppo media di XR che si occupa di fare delle interviste a delle realtà che si distinguono nel sociale e in ambito ecologico, e poi faccio parte di un gruppo che si sta occupando dell'organizzazione della pre-COP che si terrà a Milano. Ciao, io sono Sonia, faccio parte dei gruppi di cui vi ha appena parlato Melissa e anche di Assemblee Cittadine in realtà. E il lavoro sulla pre-COP è molto intenso, poi ve ne parleremo, ci sono tanti sottogruppi all'interno. Anch'io faccio parte di XR da 1 anno comunque. Ok, XR, movimento sociopolitico non violento, che chiede ai governi 3 semplici cose che però a quanto pare sono molto faticose per quanto riguarda il cambiamento. La verità sul clima e sull'emergenza ecologica in generale nel pianeta, invertire le politiche incoerenti su questo argomento in particolare e lavorare al fianco dei media per comunicare con tutti i cittadini a riguardo. Inoltre la seconda richiesta è adottare misure politiche giuridicamente vincolanti per ridurre le emissioni di carbonio allo 0 netto entro il 2025 e ridurre i livelli di consumo. E la terza richiesta, che deve essere resa operativa un'assemblea nazionale dei cittadini per supervisionare i cambiamenti come parte della creazione di una democrazia adatta allo scopo. E questo, Michele, è il mio principio preferito. È il tuo principio, richiesta preferita. E voi invece se vi occupate un po' più di parlare col mondo e di far sapere cosa sta succedendo e chiarire le cose. La pressione sui media comunque è molto importante, perché spesso trovi articoli sul cambiamento climatico in un trafiletto, mentre dovrebbero essere in prima pagina su tutti i giornali tutti i giorni finché la situazione non è risolta, perché sennò andiamo incontro alla sesta estinzione di massa, qua ci rischiamo di rimetterci la pelle tutti. Qua stiamo cercando quindi di ribellarci contro questa estinzione che ha già coinvolto varie specie e numerosissime specie tutti i giorni scompaiono, e noi che siamo la causa di questo potremmo essere una di queste specie del resto. Esatto. Ma potremmo anche essere la soluzione, dai, a questa cosa. Dovremmo essere. Difficile che nasca da qualche altra parte. Esatto. La soluzione, speriamo, ma in ogni caso dobbiamo rimboccarci le maniche. E principi fondanti sono più numerosi delle richieste, e io vi chiederei di dirci i vostri, diciamo, quelli che vi stanno più a cuore e eventualmente quelli che vi hanno portato a unirvi a XR. Allora, per quanto mi riguarda, il principio fondante che trovo veramente importante è la cultura rigenerativa. Tramite la cultura rigenerativa il movimento si, appunto, come dice il nome stesso, si rigenera. E questa cultura rigenerativa serve molto per il benessere degli attivisti, e una caratteristica peculiare è quella che noi utilizziamo la comunicazione non violenta per comunicare tra di noi, e questo si evince molto dalle riunioni che svolgiamo all'interno del movimento, anche per il semplice fatto che quando iniziamo una riunione portiamo avanti il discorso partendo da un check-in, dove praticamente indichiamo come abbiamo trascorso la giornata e come ci sentiamo, e quindi comunichiamo quale poi sarà il nostro sentire. Se per esempio una persona che ci dice qualcosa all'interno della riunione va contro di noi e noi non ci agitiamo, vuol dire che abbiamo fatto un check-in buono e che veniamo da una giornata rilassata. mentre sempre tramite questo check-in possiamo renderci conto se, ce la, se appunto non, non siamo in grado e veniamo da una giornata storta. Ecco. Col check-out invece diamo una visione completa di quella che è stata la riunione e del nostro stato d'animo. Bravissima Meli, noi ci teniamo molto alla comunicazione non violenta e all'azione diretta non violenta, quindi anche quando ci ribelliamo non siamo mai violenti, possiamo trasgredire ma senza danneggiare. Un principio che a me scalda il cuore è quello dell'autonomia e della decentralizzazione all'interno del movimento. Esistono ruoli, c'è il coordinatore interno, il coordinatore esterno, il cultore rigenerativo, il guardiano del tempo e ci sono altri ruoli di collegamento con altri gruppi, però a parte che sono temporanei non c'è una gerarchia, non c'è un gruppo che sta sopra ad un altro e l'importante è... essere aderenti alla tradizione di XR, per il resto c'è autonomia di gestione delle decisioni e del gruppo, quindi a partire dal basso. Sì, io mi rilascio un po' a quello che ha detto Sonia adesso, quindi anche a me piace un sacco l'idea che entrare in questo movimento vuol dire anche avere una rottura netta con i metodi e i modi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi il fatto di accettare quella che è un sistema auto-organizzativo, quindi un sistema orizzontale gerarchico, veramente va un po' contro, no? Quello a cui siamo abituati noi, che generalmente sono sistemi gerarchici sia nel lavoro che nella vita privata. Quindi questo mi piace, e unito a questo qua anche mi piace il fatto che ci diamo anche il tempo per capire che cosa abbiamo sbagliato, quindi che sia un'azione, che sia comunque anche una banale manifestazioni in piazza, comunque ci diamo più il tempo per capire che cosa è andato bene e che cosa non è andato bene, il che secondo me è molto importante, perché di solito qualsiasi roba che facciamo nella nostra vita non ci si prende mai un po' il tempo per capire che cosa si potrebbe migliorare. Questa è un po' la mia visione. Un modo di lavorare quindi e di comunicare che sembra abbastanza evoluto, insomma, in confronto a quello che potrebbe essere il lavoro in un'azienda o in qualsiasi altro movimento io possa pensare. Sì, è un po', cioè è totalmente diverso, ecco, secondo me è molto orizzontale, sì, circolare. È difficile, è molto difficile anche all'inizio, infatti abbiamo fatto fatica anche noi storicamente come gruppo ad adottare questo metodo di lavoro, perché chiaramente nessuno di noi è abituato, però quando ci si fa l'abitudine, ecco, dopo il lavoro va via abbastanza veloce, anzi. Facciamo all'interno del movimento anche dei corsi di facilitazione per fare da mediatori ed evitare i contrasti all'interno della riunione. E sempre per quanto riguarda le riunioni, quando ci riuniamo, oltre a quello che dicevo all'inizio, al check-in, al check-out, utilizziamo anche dei segni, per esempio la C di chiarimento con le mani, intervento, proponiamo l'accordo scuotendo le mani verso l'alto, e questo è una cosa che mi piace molto del nostro movimento, perché facilita molto le cose durante la riunione. Poi se posso aggiungere l'ultima cosa, in realtà secondo me questo è anche un enorme punto di forza un po' del movimento, perché questo sistema che è decentralizzato in realtà poi auto-ostracizza le persone che hanno un grosso ego, quindi lo sappiamo che tutti i movimenti tendono a essere molto politicizzati, molto manipolabili anche tra virgolette, e con questo metodo qua, quindi dove non c'è in realtà un vero leader, non c'è, e comunque si cerca di eliminare appunto quella che è la leadership delle persone, no, detta male così, però comunque cerchiamo di evitare di avere molto potere su una persona concentrato, ecco. Allora hai anche la possibilità di evitare appunto quelli che sono questi problemi che ti ho già detto, ne parlavo con un mio amico al Climate Fest, che mi fa che effettivamente rispetto agli altri movimenti ambientali così, forse è questo una cosa principale che ci fa un po' differenziare dagli altri, ecco, quindi forse è il metodo di lavoro, direi. Sì, sì, la mitigazione del potere è un valore condiviso all'interno di XR. Perfetto, quindi la domanda organizzazione, strategie e metodi è già parzialmente risposta, diciamo, e soprattutto come sono gestite autonomia e decentramento in XR, che erano appunto uno dei principi fondanti. E però se volete spiegarci di più come si organizza il movimento in tutto il mondo, in particolare in Italia, perché siamo in Italia e ci concentriamo un attimo qua, e, prego. C'è una grossa ramificazione, perché ci sono gruppi a livello locale, gruppi a livello nazionale e collegamenti con l'internazionale. Per esempio, all'interno del gruppo di Milano c'è il gruppo Outreach, che si occupa di conoscere nuove persone e presentare il movimento all'esterno. C'è il gruppo Arte, che si occupa delle performance artistiche, molto banalmente, poi c'è molto altro se vogliamo approfondire, però poi c'è il gruppo Scienza, che fa ricerche a livello scientifico, c'è il gruppo delle assemblee cittadine, c'è il gruppo Media, che si occupa dei social, e ci sono tanti altri gruppi. Adesso c'è un gruppo molto vasto che si occupa della pre-COP, che ci sarà a cavallo tra settembre e ottobre, che è la preparazione alla COP26, che ci sarà a Glasgow a novembre. E quindi all'interno di questo gruppo ci sono altrettanti sottogruppi riguardo i contenuti, lo studio, la relazione con i movimenti, e ogni individuo è assolutamente autonomo, può decidere cosa frequentare e quando frequentarlo, cosa lasciare e a cosa aggregarsi. L'importante è che tutti di buon cuore si assumano le proprie responsabilità fino al momento in cui decidono magari di delegarle. Però se appunto io ho detto che mi porto avanti un compito, lo faccio o lo delego, non temporeggio, ecco, senza poi arrivare allo svolgimento del compito danneggiando così il gruppo. E questa filosofia è ben fluida, ecco, all'interno. Sì, diciamo, secondo me, come organizzazione, a me piace fare il raffronto con, che è un po' ambizioso come confronto, però, con le api. Diciamo che nell'alveare, a parte l'ape regina, non c'è un... ci sono dei gruppi di lavoro, tra virgolette, e quindi anche noi ci diamo questa organizzazione qua, che quindi è molto, molto elastica, molto orizzontale, siamo divisi in sottogruppi, come ha già spiegato Sonia molto bene, quindi... Questa è un po' l'idea del modo di lavoro che ci fa andare avanti. Ed essendo un movimento, non avendo una forma, diciamo, ben specifica, anche economicamente, finanziariamente, è tutto molto orizzontale, mi è stato spiegato. Ma sì, diciamo che finanziariamente, vabbè, non abbiamo tanti soldi che girano, chiaramente, quindi il discorso non è molto, molto ampio dal punto di vista finanziario. C'è da dire che lavoriamo su crowdfunding, su quelle che possono essere donazioni date da qualsiasi persona. La stessa cosa può essere specchiata su quelli che sono i portavoce, quindi non abbiamo dei portavoce ufficiali, ma siamo noi che chi vuole va a nome proprio, chiaramente parlando sia come Michele in questo momento qua, ma anche come XR. Perfetto. E quindi, per convincere i governi e l'opinione pubblica, cosa fate esattamente, per esempio questa pre-COP, se volete dirci qualcosa di più, e in generale che tipo di attività fate? Prima Sonia e Meli annunciavano di lavoro nei media, quindi in particolare cosa combinate? Non so se anticipo... È tutto top secret. Non so se anticipo troppo, però c'è una rete di collegamento con Greenpeace, con Ecologia Politica, con Off Topic e altri movimenti che si stanno aggregando adesso dopo una recente riunione per fare delle azioni congiunte nel periodo della pre-COP. Più che parlarti del futuro, di cui ti parleranno sicuramente i ragazzi di Outreach in qualche possibile formazione, ti parlerei di quello che è appena successo, ossia di recente i ribellu di Torino si sono seduti da soli nelle strade impedendo il passaggio delle macchine per attirare l'attenzione dei media sulla crisi climatica. Di altro stampo invece è appena stato fatto un evento al Climate Fest, che è un festival a Milano, al Parco Nord, in cui ci sono gli stand di tutte le associazioni ambientaliste o similari, e quindi ci sono state delle attività per bambini e dall'aperitivo all'outreach, alle formazioni sull'azione diretta non violenta, dialogo con i passanti e informazione profusa. C'era una disegnatrice che disegnava gli animali in via d'estinzione, e quindi sono stati due giorni molto intensi. Alcuni di noi hanno anche affrontato il diluvio. E un'ultima cosa che vorrei ricordare, non è recentissima ma è molto potente, è un'azione che c'è stata sempre a Torino, in cui i Ribellu si sono incatenati sulle colonne della piazza fino all'arrivo di almeno un giornalista di un quotidiano che loro avevano intervistato, e non sono mai scesi dalla colonna alla quale erano incatenati fino a che non è arrivato veramente un giornalista del Corriere della Sera per ascoltare la nostra voce. Visto anche all'AIA sono state arrestate 120 persone ad aprile, sempre di XR. Sì, in realtà c'è da dire solo una cosa, cioè non è che adesso noi ci incateniamo ad ogni palo che troviamo così per fare, cioè anche l'azione di Torino chiaramente è sempre dentro una narrativa e dentro un quadro che è molto forte, quindi a Torino si erano messi per terra davanti alla sede di Leonardo che sappiamo l'azienda italiana che è, quindi comunque elicotteri, armi eccetera eccetera, in un contesto molto ampio, quindi di narrativa sul PNRR, quindi su quello anche che sono le richieste di avere una vera transizione energetica da questi fondi che arriveranno col Next Generation EU, quindi non dare comunque alimentare ancora le aziende fossili comunque o quelle che possono alimentare quella che è la crisi climatica, ma garantire una vera transizione, ecco, quindi non siamo tutti matti che ci cateniamo ai cancelli ogni volta. Le attività rischiose sono relegate soltanto a chi è molto spinto a farle, io per esempio non lo sono e ho tutto il mio spazio per appoggiare il movimento senza assolutamente compromettermi dal punto di vista legale, che è una cosa che io non voglio fare, vengo rispettata benissimo in questo, quindi c'è posto per tutti i tipi di persone, anche per quelle che vogliono assolutamente combattere la crisi climatica ma senza appunto sfidare la legge. Io volevo ricordare invece che sempre il nostro movimento, il movimento del gruppo locale di Milano, ha svolto a Piazza degli Affari di Milano appunto una performance artistica che è stata denominata come l'ultima cena dei banchieri, e durante questa performance artistica c'erano appunto rappresentati in scena con dei costumi costruiti apposta per l'occasione dei banchieri cui veniva portato del cibo finto ovviamente, e una volta terminato si dava loro da mangiare dei soldi e poi terminava col fatto che usciva dalla loro bocca del petrolio come performance artistica, che è stata molto di impatto ed è stata poi anche pubblicata sui nostri canali social e spinta molto, molto significativa. Quando avrete prosciugato i fiumi e finito tutto il cibo, scoprirete che non potete mangiare il denaro. Lo slogan suonava tipo così. Esatto. Lanciata la sfida. Se mai verrà raccolta, speriamo che non l'accolgano, perché se veramente si mettono a finire tutto nel tentativo di sarebbero anche capaci forse. Beh, sì. Comunque è fantastico, sottolineata ancora di più l'aspetto volontario del movimento e di orizzontalità. Per quanto riguarda invece i canali mediatici, ho visto un sito molto ben organizzato e anche YouTube. Ci sono diversi contenuti molto ben fatti, e voi lavorate anche a qualcosa di scritto, giusto? Allora, io posso dire che facendo parte del gruppo media, il social su cui puntiamo di più sono tre principalmente, sono Facebook, Instagram e Twitter, dove pubblichiamo tutti i nostri eventi, soprattutto sul canale Facebook, ma anche Instagram ovviamente. e pubblichiamo anche dei nostri contenuti. Come dicevo, io faccio parte del gruppo sottogruppo di media che si chiama Isole nella Rete. Abbiamo anche un sito nostro dove pubblichiamo degli scritti di interviste che facciamo appunto a queste realtà, come dicevo all'inizio, che si distinguono sul territorio milanese. E quindi questi sono i nostri canali che... E poi abbiamo un sito ufficiale, XR Italia e quant'altro. E ce l'abbiamo TikTok? TikTok sennò, sì, da poco. Okay, allora va bene, okay. Anche TikTok è stato creato da poco, ma ce l'abbiamo. Ottimo, ottimo. E per i più curiosi apparirà ben presto un'intervista all'Ex Alge sulle pagine di Isole nella Rete. Perfetto, e anche su Ex Alge apparirà presto un'intervista XR. I canali mediatici si ampliano, insomma, prego. Volevo ricordare a tutti appunto quello che diceva Giovanni, ossia il canale YouTube in cui ci sono anche delle conferenze molto interessanti. C'è una conferenza del professor Caserini sulla COP e su che cosa sono le COP, ma ci sono anche tantissime bellissime conferenze del nostro gruppo scientifico nazionale chiamate Chiedi alla Scienza, che sono state fatte nei mesi scorsi con ospiti di riguardo ed esperti del settore e sono molto molto molto formative. Fantastic. Tra l'altro uno dei video che ho visto era appunto di questi vostri ribellu nel traffico seduti e mi ha molto impressionato, mi è piaciuto molto. Che tipo di risultati siete riusciti a raggiungere, a parte di influenza mediatica che ho visto in verità andare abbastanza bene sia negli eventi, nei parchi o in mezzo al pubblico, insomma, sia su internet, con i governi, come andiamo? Questo forse è anche da specificare. Nel mondo, in particolare magari nel Regno Unito, in cui XR è molto presente, la risposta è molto forte, nel mondo e poi in Italia. Ma sì, forse, chiaramente siamo stati sfortunati come tutti quanti, perché siamo nati il gruppo di Milano nel 2019, dopo un anno di attività, quindi quando cominciavamo a farci conoscere c'è stata la pandemia, quindi è un anno e mezzo che siamo dentro casa quasi, e quindi in realtà i risultati immediati con il governo italiano non ce li abbiamo ancora. Abbiamo fatto una settimana a Roma dove avevamo delle persone incatenate fuori da ENI, dove non c'è stata assolutamente una copertura mediatica. La stessa cosa quando abbiamo fatto anche l'ultima azione, era in concomitanza poi con una manifestazione no mask sempre a Roma, quindi è chiaro che si sa chi fa più visualizzazioni, sicuramente non la crisi climatica, però possiamo dire che a livello globale secondo me si muove molto di più, quindi, ma c'è anche forse un'attenzione più profonda per quelli che sono le popolazioni del nord Europa, quindi Francia, Germania, Svezia, un sacco, Inghilterra, come hai detto te adesso. E in Italia invece ci stiamo muovendo più a livello locale, ma secondo me anche a causa proprio di una configurazione culturale nostra, quindi credo che l'Italia si muova meglio da un punto di vista locale, quindi abbiamo anche molte città che stanno facendo un sacco di risultati rispetto che a un livello nazionale. Adesso non so se Sonia vuole parlare a livello locale. Sì, io sono molto molto molto curiosa di sapere come andrà a finire in Toscana, perché sia la città di Firenze che la regione Toscana stanno collaborando con XR e stanno trattando per istituire delle assemblee cittadine e regionali. Quindi se loro ce la fanno dobbiamo poi farci dare una mano ad affrontare i nostri comuni e le nostre regioni in maniera efficace. Sarebbe un bel esempio. Sì, c'era da dire che avevamo lavorato anche un sacco noi con il comune di Milano per il piano aria clima, per istituire delle assemblee cittadine, dove però non sono state fatte, almeno non come dovrebbero essere fatte, più delle assemblee popolari, consultative, quindi dobbiamo anche un po' riconoscere cosa va, cosa non va all'interno sia del movimento che anche della politica. Non è così facile come sembra, che chiediamo una cosa e automaticamente venga fatta. Oltretutto anche sulla richiesta dell'assemblea cittadina, che è la meno impattante magari dal punto di vista politico, ecco. Però è una delle tre richieste in particolare ed è una delle tre che cercate di portare avanti. Se volete spiegare un po' cosa dovrebbe essere un'assemblea cittadina, come dovrebbe funzionare, eventualmente. Sì, vado io, cerco di rispondere in breve, non stare qua un quarto d'ora. Praticamente in realtà non è una richiesta, è forse più uno strumento, secondo me, che noi chiederemo ai governi. Sono dell'assemblea di cittadini permanenti estratti a sorte, che potrebbero aiutare i governi a fare delle scelte che sono a lungo termine. Quindi lo sappiamo molto bene che la politica attuale ha delle visioni che sono a breve termine, nel senso che il termine è dato dal mandato politico. Quindi ad oggi, ma penso neanche tra 10 anni, nessun politico avrà l'ambizione di dire: ok, faccio delle riforme talmente forti, ambiziose, nel giro cioè in lunga visione di 30 anni, perché? Perché altrimenti il prossimo mandato chiaramente non mi vota nessuno, proprio così, detta in parole molto povere. Le assemblee cittadine invece possono permettersi di avere queste ambizioni, possono permettersi anche di avere una certa radicalità che la politica non può avere, ecco. E quindi l'istituzione delle assemblee cittadine, ce n'è stata fatta una molto bella in Francia, la Convenzione dei cittadini per il clima, che è scaturita dopo tutto quello che era successo con i gilet gialli, dove il governo, quindi il governo di Macron, ha istituito una vera assemblea cittadina con delle richieste che a leggerle veramente erano estremamente futuristiche per la politica europea. Purtroppo queste richieste, cioè i risultati di questa assemblea cittadina non erano vincolanti dal punto di vista legislativo, e quindi il governo ci ha messo un bel po' di filtri, non sono più così radicali, ecco. Però è stata una bella esperienza, secondo L'obiettivo però è che diventino in parte me. vincolanti, che ci Esatto. sia una relazione un po' più pari tra queste assemblee cittadine e governi. Sì, esatto, la richiesta appunto è che le richieste delle assemblee cittadine possono essere dal punto di vista legislativo vincolanti, perché altrimenti resta un'assemblea popolare di consultazione. C'è da dire anche che XR non organizzerà le assemblee cittadine, ma perché? Perché devono essere i governi a organizzarle. Quindi noi crediamo veramente molto nella politica e crediamo anche che la politica sia in grado di fare delle assemblee cittadine che possono prendere delle decisioni così. Un suggerimento per adottare uno strumento che può essere molto utile per il pianeta e per i Esatto, cittadini quindi. e non per vincere le elezioni, Ma insomma. sì, esatto, quindi non vogliamo neanche sostituire la politica o le democrazie attuali con altre forme di governo. Sì, io vorrei infatti spiegare agli ascoltatori la definizione di vincolante. Vincolante non significa che i cittadini estratti a sorte prendono in mano la Costituzione e la modificano loro stessi in prima persona. Vincolante significa che la decisione dell'assemblea cittadina va direttamente in Parlamento e il Parlamento è obbligato a parlarne, discuterne, modificare, approvare, sperabilmente approvare. O altrimenti tramite referendum. Sì, vabbè, Sì, sì, sì, poi sì, sono sì. Delle proposte di legge, molto. insomma. Esatto, esatto. Sarebbe per fare delle proposte di legge da parte di gruppi di cittadini disinteressati al potere e al guadagno. Una cosa molto interessante è che vediamo nei partiti quello che si scatena quando il singolo politico non rispetta la decisione del partito, quasi come se fosse qualcosa di sbagliatissimo. E al di là del giudizio su questa cosa, il cittadino estratto a sorte non fa parte di un partito e quindi non è legato alla posizione del partito per esprimere il suo parere. E in più viene formato da degli esperti prima del voto che cercano di portare le opinioni sia da una parte che dall'altra. Esatto. Quindi si punta ad avere dei cittadini super partes, per quanto sia impossibile, però più di quanto lo siano i politici. Un piccolo, in verità, strumento che però potrebbe avere grandi risultati e pare sicuramente sensatissima come richiesta. E che conseguenze ha la disobbedienza civile e come l'affrontate quando succede? Ma in realtà è una bella fonte di discussione all'interno del movimento, perché secondo me, adesso io parlo da Michele, chiaramente non parlo da XR, però dobbiamo essere anche in grado di capire quando utilizzare lo strumento della disobbedienza civile. Chiaramente se siamo in 10 a essere nel gruppo di Milano è inutile che ci incateniamo tutti e 10, perché poi il movimento resta con la testa mozzata, diciamo. E, è uno strumento che adesso stiamo utilizzando a livello nazionale, quindi abbiamo un supporto di veramente molte persone dietro a chi vuole fare disobbedienza civile, nel senso di mettersi in gioco dal punto di vista anche legislativo, appunto con delle sanzioni o delle denunce. E secondo me è una... Beh, a parte che forse è anche l'unico strumento che adesso ci rimane per farci ascoltare, per comunicare anche l'urgenza delle nostre richieste. E poi sì, sarà una bella sfida più che altro magari anche per la pre-COP, per capire come utilizzare la lezione diretta non violenta, la disobbedienza civile. Non so se ho risposto bene a questa domanda, è sempre un po' sì. Quindi in Italia quanti siamo, quanti siete? Io sono già, ho già voglia di fare disobbedienza civile insieme a voi e chiamare i governi per iniziare a fare qualcosa. Ma allora siamo, se non sbaglio, una cinquantina attivi a Milano più o meno, e poi saremo qualche centinaio su tutta Italia. Adesso non ho il numero diretto perché poi... E non siete occupati a pieno tempo in questa cosa, ma ovviamente fate anche altro. Sì, io ho il mio lavoro, quindi posso dedicare, penso anche comunque, vabbè, quasi tutti quelli di Milano hanno il proprio lavoro, anche Sonia e Melissa che sono qua, cerchiamo di dare il più tempo possibile, però chiaramente all'interno della disponibilità. Nel canale Telegram di XR Italia siamo 1800, nel canale delle persone attive per portare avanti la ribellione e quindi che hanno voglia di impegnarsi a livello operativo, che sia anche dietro le quinte come me e Melissa, siamo 663. Sì, c'è da dire che tra i 1800 c'è anche dentro la Digos, perché quello è il canale, sicuramente. Quindi. Sempre pronti, sono sempre pronti. Cari amici. E nel mondo anche bene, molto esteso invece. Ma sì, molto esteso. Adesso io stavo guardando questi giorni, in realtà ci sono dei punti nel globo dove non pensavo proprio ci fosse, o comunque non ci fosse forse l'urgenza di a guardare la crisi climatica nel senso magari politico o di richiesta al governo, perché ci sono probabilmente e sicuramente dei problemi maggiori, quindi insomma è molto attivo XR Uganda, XR Nigeria, ma anche Thailandia, quindi anche in contesti politici e sociali dove in realtà la disobbedienza civile potrebbe essere, o comunque le azioni dirette non violente potrebbero essere in seconda parte. Quindi in realtà è molto ben sviluppato. Secondo me appunto la forza è il fatto che sei un po' decentralizzato, hai un bel brand, le solite cose. Dai, siamo tipo un po' i Fridays for Future, quindi... Fate molta rete esteso, anche, no? Sì, quindi sì, con sì, appunto... Sì. Greenpeace, Fridays for Future eventualmente anche? Sì, assolutamente, sono sempre in contatto. C'è un dialogo aperto, sì. Specialmente per la pre-COP stiamo cercando di non fare un qualcosa, visto che sarà un evento a livello comunque nazionale e internazionale, aprire anche assolutamente agli altri movimenti, perché l'unione fa la forza, quindi più siamo meglio è. Magari noi abbiamo il metodo di lavoro, Fridays ci può portare invece i numeri delle persone, comunque la visibilità mediatica, che hanno una visibilità mediatica pazzesca rispetto alla nostra, e così come anche Greenpeace, Maitese, eccetera, eccetera. Quanto è sentita l'emergenza climatica, e non solo, per voi, per chi partecipa in XR? Quanto, forse è una domanda un po' stupida, perché siete... tutti i giorni impegnati nel cercare di cambiare le cose, allora quanto e come forse, quali sono le emozioni che vi muovono a questa ribellione, a questa lotta, che senso date a questa lotta? Beh, stiamo vedendo tutte le catastrofi climatiche che ci sono in giro per il mondo, soprattutto negli ultimi anni, e sicuramente con l'innalzamento dei mari, con gli incendi, con le devastazioni climatiche di vario genere, Non c'è molta speranza se non facciamo qualcosa per abbassare drasticamente le emissioni e diminuire drasticamente le catastrofi climatiche. Quindi l'urgenza è tra le tre richieste e chi fa parte di XR sente l'urgenza come qualcosa di veramente molto molto molto importante. Noi sentiamo decisamente l'urgenza da questo punto di vista, come ha appena citato Sonia, e anche nel nostro piccolo comunque poniamo nel nostro quotidiano delle scelte etiche che possono andare a ridurre il nostro impatto. Cioè noi partiamo da noi stessi in primis per poi diffondere il verbo anche facendo outreach. Sì, vado, aggiungo qualcosa io. Beh, non lo so, io l'ho sentita anche magari dal mio background di educazione, quindi in realtà leggendo ogni volta quello che sta uscendo anche dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, comunque l'IPCC, cioè, c'è da cagarsi addosso, si può dire, però vabbè, nessuno se ne sbatte tanto. Io mi voglio ricollegare a quello che diceva Melissa, ossia dell'impegno individuale oltre che di quello sociopolitico. Esiste un gruppo fantastico dal mio punto di vista che si chiama Disinvesti dal Fossile e fa parte di XR e ha questa mission entro un mese di raggiungere quota 100 persone che chiudono il conto Banca Intesa o Unicredit in quanto finanziatrici di Fossile e lo aprono in altre banche che invece sono sostenibili e che non vanno a finanziare. Quindi c'è questo movimento che porta a incentivare a livello individuale la consapevolezza di dove vanno a finire i propri soldi e la consapevolezza che no, io non voglio finanziare il fossile, io credo in una realtà differente. Poi, ultima chicca, alcuni di noi fanno parte proprio del gas là, di Exalge e quindi abbiamo a cuore il chilometro zero, abbiamo a cuore il biologico e tanti di noi vengono qui in bicicletta anziché inquinare in automobile. Quindi ognuno ha i suoi tempi a livello individuale, non mettiamo pressione a nessuno, nessuno è obbligato a fare delle scelte, però sicuramente l'invito a compierle c'è. Mi sembrano tutte conclusioni molto razionali, quindi penso che la scelta di lottare per un mondo migliore, diciamo, sia basata su fatti concreti e scelte concrete. Qualcuno ha detto cagarsi sotto, quindi potrei anche dire che un po' di paura c'è, ma è giusto, è un sentimento giusto da avere nei confronti di un pericolo reale imminente. E dovrebbe solo spingerci a lottare ancora di più. Quanto credete sia sentita per il resto del mondo? Per esempio, Michele, prima dicevi in Uganda, eventualmente non mi sarei aspettato molta partecipazione, però abbiamo visto che di manifestazioni per il clima ce ne sono state in tutto il mondo, nonostante poi vengano eventualmente ignorate dai governi o dai media per focalizzarsi su altro, ma lì vige la legge dell'economia, della vendita delle informazioni, purtroppo. Quanto credete sia sentita per il resto del mondo questa emergenza e quindi quanto lavoro c'è da fare? Ma secondo me in realtà è sentita poco per il privilegio che abbiamo, che potremmo sentirla. Questo è un po' il fatto. Cioè, noi occidentali potremmo veramente sbatterci veramente molto di più, perché si stanno sbattendo delle popolazioni dove in realtà la crisi climatica è già arrivata e non vedo perché noi, che siamo privilegiati, che possiamo veramente fare, potremmo fare tutto quello che sono le tre richieste di XR o comunque anche le richieste di Fridays for Future, di Greenpeace, non le facciamo. Perché? Perché ci fa molto comodo comunque non abbandonare il nostro stile di vita in primis e poi anche macchina voglia di andare in piazza, perché tanto dici ma sì, ma cosa vuoi che sia, cioè alla fine a me interessa avere il mio stipendio alla fine, quindi bah, secondo me allora non è sentita molto. C'è anche da dire però, per non essere sempre negativi, perché poi sono così un po' di mio, che in realtà negli ultimi anni, da quando è apparso XR, è apparsa Greta Thunberg, cioè questa è diventata adesso un problema, cioè più che altro una narrazione anche dei media che è centrale, quindi mai mi sarei aspettato, non so voi, però che fino a 3-4 anni fa, se fosse arrivato tipo anche un fondo grande come il Next Generation EU, fosse dato un vincolo dall'Unione Europea di mettere quei soldi almeno in parte sulla transizione ecologica energetica. Cioè, secondo me c'è anche da riconoscere che abbiamo fatto dei passi enormi, che però appunto non sono in linea con quella che è l'urgenza, quindi dobbiamo sempre un po' scontrarci tra come ci stiamo muovendo e anche come avremmo dovuto muoverci, ecco. La visione di Michele è assolutamente vera. Il nostro bersaglio è ancora di più i media, perché bisogna capire anche dove mettono il fuoco. Nel momento in cui mi mettono il fuoco su Greta Thunberg, per quanto sia una grande, si va a raccontare la storiellina di Greta. Sì, ma mentre se mi metti in primo piano ciò che i governi hanno detto di fare e non hanno fatto, ciò che il popolo vuole dai governi e il governo non sente, ciò che è stato promesso, come dicevo prima, e si temporeggia e viene rimandato e quant'altro, ecco, questo dovrebbe essere in prima pagina. Sì, oltre però secondo a Greta. Te, Sonia, cioè, quanto ti fa vendere dal punto di vista editoriale, di mercato, che cosa? Ti fa vendere il fatto, certo, di dire che la Greta è una stronza, no? Che vuole farci mangiare tutti quanti le verdure e basta. E quello ti fa vendere, secondo me, ti fa fare click su Facebook, eccetera, eccetera. Non sicuramente dire che tutto sta andando a rotoli, quindi c'è per una pura legge proprio di mercato, si può anche capire perché non parlano di queste cose qua. L'ambasciatore non dovrebbe portare pena, e invece ce l'hanno tutti con l'ambasciatore, e invece esatto, il messaggio è stato perso nell'etere, praticamente. Allora, questi obiettivi quindi pensate siano realizzabili, vista un po' la situazione del comfort, l'uomo, l'essere umano abitudinario, con i suoi stili di vita viziati. Voi avete dei chiari obiettivi per il 2025, sono realizzabili? Io voglio una risposta che è sì, assolutamente sì, però allora, volere e potere, abbiamo visto in pandemia che sono stati fatti tagli da tutte le parti per mettere tantissimi soldi nella gestione della pandemia. Ecco, l'emergenza climatica è come la pandemia, quindi tagliamo, facciamo, disfiamo, ma quei soldi devono andare per le rinnovabili, per la transizione energetica e quant'altro. Michi, vuoi aggiungere qualcosa? Do un tocco di ottimismo. Ah, secondo me, adesso parlo sempre da Michele, non è realizzabile chiaramente, ma è vero, cioè, siamo ancora qua che parliamo di come fare lo switch tra carbone e gas. Non è realizzabile entro il 2025, però il 2025 che intendiamo noi è quello che è necessario fare. Cioè la scienza, l'IPCC, che è il panel intergovernativo dell'ONU, ci dice che dovremmo azzerare le emissioni al 2025 per poter stare dentro gli accordi di Parigi. Quindi non è una data politica come può essere il 2030-2050, che ci sentiamo sempre un po' dire, ma è una data necessaria. Infatti una settimana fa, due settimane fa, è uscito anche il report dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, e chiaramente loro ci hanno detto che per rispettare la decarbonizzazione al 2050, come stanno promettendo i governi, non dovremo mai più costruire da ora, cioè da oggi, delle infrastrutture per i combustibili fossili. Cioè, anche quello è una mazzata, però non sta succedendo. Con ogni giorno un continente sì, un continente no, che dichiara di entrare e uscire dal protocollo di Kyoto, piuttosto esatto, che Copenaghen, piuttosto che... E dire, oggi brucio carbone perché mi serve, domani, vabbè, rientro nel protocollo. Domani no, domani sì. Mi fa un po' voglia di marketing, allora rientro dentro Parigi, esatto, che tanto non sono vincolanti, avanti. Ecco, dai, non sospiriamo, ridiamocela su e diciamo no, che già con la pre-COP, con l'arrivo del 2022, spingiamo tantissimo e li ribaltiamo tutti. Sì, dai, c'è un se argomenti vuoi, da ridere. Se vuoi riderci su, sei già pronto per la nostra cultura rigenerativa, perché perfetto, in XR di sicuro non facciamo gare di pianto. Perfetto. Sì, sono argomenti un po' pesanti, ma però cioè, questo è, non è che stiamo guardando il cartone nuovo della Disney e sì, ridiamo, però comunque c'è lo spazio anche per essere molto propositivi e ottimisti, dai, non è che proprio andrà tutto male nei prossimi 5 anni. Anche. Allora, nel 2025 accade questa stupenda cosa che l'obiettivo di XR è stato raggiunto. Cosa succede? Cosa succede a XR? Ma in realtà, secondo me, la domanda potrebbe essere cosa succede a noi? Cioè, come ci immaginiamo il nostro futuro tra 5 anni? Cioè, ti ribalto un po' la domanda. Non so se vuoi rispondere a te o se vuoi rispondere loro. Cioè, ci provo. Se effettivamente dovessero essere azzerati tutti i gas climalteranti, cioè, come ci aspettiamo noi la società tra 5 anni così? Secondo me questa è una domanda che può essere travisata in un esercizio di immaginazione, che quindi ci può anche dare una narrativa positiva, che è quello che dicevamo prima, per uscire da questa fogna. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Siamo d'accordo con Miki? Sì. Cioè, io me la vedo, non lo so, una società che probabilmente potrà, ma non lo so, poi dipende. Se sempre sarebbe come vivere pura in un sogno, sì, insomma. Esatto, però se è una decarbonizzazione pura, vabbè, sì, molto bene, quindi andremo avanti con le nostre vite normali. Se però è una vera transizione energetica, che quindi comprenda anche l'inclusività di altre lotte che sono molto collegate, quindi mi viene in mente la parte del femminismo, quindi la parte di genere, l'agricoltura, eccetera, eccetera, cioè ci viene davanti un mondo che è sì, una figata. Diciamo che l'antropocene non si ferma al cambiamento climatico, ma va bene oltre. Di lavoro ce n'è molto da fare, però XR appunto non si ferma solo al clima. Sì, per XR la giustizia climatica è collegata a gioco forza con la giustizia sociale. Vi faccio un esempio, le foreste che tanto ci servono per l'anidride carbonica, da chi sono protette? Sono protette dagli indigeni. Se penalizzi gli indigeni e li fai soffrire in vario modo per invasioni di campo da parte di multinazionali o di qualunque ingiustizia che possono subire queste persone, vai anche a togliere la protezione dalle foreste. Assolutamente, meno ossigeno per tutti. Sai che mi viene un po' in mente questa cosa degli indigeni sempre, cioè adesso noi magari parliamo sempre lontano, no, con gli indigeni, che possono essere gli indios, l'Amazzone, così, però in realtà a casa nostra, proprio nel piccolo in Italia, credo che tutti noi, bene o male, partiamo da comunque famiglie che lavoravano la terra, quindi anche quello secondo me è un po' un essere indigeno all'interno della propria comunità. E io ho visto anche solo passare con i miei nonni, i miei genitori e io, abbiamo perso tutte queste tradizioni, sono state portate nel fatto che io devo andare all'università, devo trovare un lavoro molto buono che possa essere in ufficio e assolutamente dimenticare tutta quella che è la parte di connessione con la natura che avevano i miei nonni. Non so se la sentite anche voi questa roba qua, però cioè, l'indigeno io lo guardo un po' anche da questo lato qua. Mettono le case, non lasciano l'erba, dicevano nella canzone, perché non lasciano l'erba. E, nel frattempo trovatevi un lavoro in un edificio con climatizzazione e riscaldamento al massimo a dicembre ad agosto. Un bel SUV, due o tre, anzi, no, uno per ogni componente della famiglia, tre o quattro cellulari e così via. Come si può partecipare al movimento? Io ho parlato troppo, vai Son. Allora, noi organizziamo ogni tot delle formazioni in cui presentiamo con strumenti informatici tipo slide che cos'è XR, quali sono i nostri principi, e da lì poi si accede a tutta l'organizzazione, si viene smistati, si vengono presentati gruppi di lavoro e si inizia a vedere quale può essere il gruppo di lavoro che a noi è più affine. Solitamente si consiglia di provarne più di uno per capire in quale si riesce a dare magari un apporto migliore in base anche alle proprie caratteristiche. Ma si consiglia anche di sperimentarsi, ecco. Le formazioni di cui parla lei ovviamente sono pubblicizzate sui social, quindi seguiteci e veniteci a conoscere. Fantastico, se vogliamo fare un recap di tutti gli appuntamenti e di tutti gli indirizzi, io partirei con un suggerimento mio, il 22 febbraio 2022, di fare una gigantesca manifestazione nelle capitali degli stati di ogni paese, non violenta ovviamente, ma molto molto infastidente dovrebbe risultare, piena di persone. Per assolutamente chiedere cambiamento, mi avete detto isole in rete, giusto? Nella rete. Isole nella rete, scusate. La pre-COP abbiamo. Sì, a settembre, fine settembre, ottobre. Isole nella rete, punto. È un WordPress, comunque se cerchi isole nella rete su Google lo trovi subito, WordPress. Poi abbiamo Extinction Rebellion e Extinction Rebellion Italia. Sì, punto sì. It, tutti poi i social. Abbiamo Extinction Rebellion Milano, sia su Telegram che su Facebook. Sì, io direi di seguire più Facebook alla fine, quello dove mettiamo tutte le nostre robe, no? Sì, sì, sì, Facebook va benissimo. TikTok? TikTok che hanno... New Entry. Non dimentichiamoci di TikTok. E c'era un ultimo appuntamento, forse, o qualcosa? O mi sbaglio? Sicuramente bolle l'acqua in pentola per il G20 di Venezia. Ok, vedi, c'è sempre qualcosa di... Sì, noi come gruppo di Milano ci stiamo chiaramente muovendo più per la pre-COP che sarà qua, però poi come gruppo nazionale c'è Venezia. Beh, ricordiamo a tutti e tutte che anche senza entrare in XR si può essere testimonial della campagna Disinvesti dal Fossile. Quindi anche se non volete entrare in XR perché non avete tempo, ma volete cambiare banca per motivi etici, contattateci e facciamo numero, alleiamoci. E ricordiamo un po' le due banche di cui tra l'altro poco tempo fa hanno processato il presidente, mi sembra. Ti ricordi, avevi letto tu Intesa un articolo San Paolo. Su Intesa San Paolo e San Paolo e Unicredit. Perfetto. Che finanziano fossile nucleare. Guardate, sono sulla... da boicottare assolutamente. E guardate nella vostra bolletta, anche se il vostro fornitore consuma carbone, esatto. Energia fossile. Tanto ci sono un sacco di aziende che forniscono energia pulita e anche a basso costo. Usate di più la bicicletta. Esatto. E non so, se volete dirci qualsiasi cosa in più di XR, qualche consiglio. Io consiglio sempre, per essere alleati con il clima, di modificare, comunque far uso molto meno di carne e pesce, soprattutto di carne, perché molta della carne che poi troviamo in tavola proviene dagli allevamenti intensivi che appunto producono gas metano che inquina l'atmosfera e comunque per una scelta etica anche consiglio questa modalità. Io potrei aggiungere invece che come azione sempre personale, in realtà quella di informarsi un sacco e di essere attivi politicamente, nel senso di andare a votare, informarsi, sapere quali sono i programmi, perché adesso parliamo di tutte le cose che possiamo fare personalmente, magari, che ne so, chiudere l'acqua mentre ci leviamo i denti, però sappiamo che poi quello che conta veramente un sacco è anche la parte indiretta nostra, quindi la nostra parte politica. Adesso noi come XR non siamo un gruppo politico, però secondo me la fai quando scendi in piazza, fai politica. Adesso lo stiamo facendo anche noi parlando qua in quattro. E quindi non dimenticare anche che c'è questo lato da non trascurare. Certamente, la politica è cosa comune e quando siamo con altri già la stiamo facendo. Esatto. Quindi condividere un pensiero verso una rivoluzione, insomma. Sì, chiedere anche ai nostri, visto che abbiamo le nostre email, chiedere ai nostri deputati, che a me non mi rispondono mai, di votare in un certo modo al Parlamento, di comunque fare sentire la propria voce. Sì, anche fare mail bombing è divertentissimo. Abbiamo fatto anche questo. In questi atti di disobbedienza civile sono anche online. Da pandemia. Spero di non essere mai un bersaglio del mail bombing. Ok. Ragazzi e ragazze, Perfetto, grazie mille. È stato un buon passo verso la rivoluzione, secondo me, verso la ribellione, il cambiamento. Andiamo a evitare questa estinzione. Grazie di averci ospitato, assolutamente sì. Grazie a voi.